9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua in studio, vi ho promesso una puntata un po' da fine settimana, ma comunque seria, perché parleremo dei prodotti dell'enogastronomia italiana, ma iniziamo a farlo da un punto di vista un po' particolare. Siamo reduci da settimane, da giorni in cui molto si è parlato di ordinanze come quella, per esempio, assunta dal Comune di Milano, un'ordinanza proibizionista, si può usare questo aggettivo, volta a contenere il consumo di alcolici, che per la prima volta ha colpito non solo il consumo ma anche la detenzione, si direbbe, no? Quasi fosse una droga, di alcol per i minori sotto i 16 anni. In realtà niente di nuovo, perché sono tutte norme che già esistono, però il Comune di Milano l'ha ribadita, un grande scandalo sui giornali: è utile, non è utile. E poi aggiungiamoci tutte le consuete campagne per non bere neanche un goccio, per porsi alla guida, dimenticandosi che poi noi abbiamo molti paesi che hanno i limiti più alti dei nostri e hanno meno incidenti, quindi forse non c'è una cosa troppo diretta. Quindi abbiamo scelto di iniziare ad occuparcene da questo punto di vista. Perché? Perché nelle campagne, in una delle zone più vocate del grande vino italiano, sono iniziati ad aprire dei cartelli che chiediamo al loro autore di spiegarci, dei cartelli in cui c'è scritto guida poco che devi bere, ed è con noi Battista Cornaglia, che ci spiegherà chi è, perché mette questi cartelli e qual è la filosofia che c'è dietro. Buongiorno Cornaglia. Buongiorno a tutti. Ecco, e insieme commentiamo questa prima parte della trasmissione, che poi viriamo invece su cosa succede al vino italiano, alla enogastronomia italiana in questo momento di crisi, con Paolo Massobrio. Buongiorno Massobrio. Buongiorno a tutti. Presidente e fondatore del club di Papillon, è uno dei più grandi giornalisti enogastronomici italiani, una guida strepitosa che adesso tra poco si chiuderà per scrivere definitivamente e poi darci nel prossimo autunno. Battista, iniziamo con questi cartelli, ma come è venuta questa idea? Noi viviamo in un'osteria di campagna, più che lavorare ci viviamo, perché ci passiamo la nostra vita, e l'osteria è un po' un mezzo di comunicazione molto forte nella nostra società. Oltretutto, come si diceva già 2000 anni fa, in vinum veritas, poi saltano fuori un po' tutte le verità. In vino veritas, vino è veritas. Ablativo, non è... Io al latino non l'ho studiato. Ecco. Bene, allora, che cosa è successo? È successo che ci siamo accorti che da un paio d'anni la gente ha paura di chiedere il vino, quasi si vergogna. E ci siamo accorti che il cambiamento di questo atteggiamento della gente rispetto al vino va un po' a toccare quelle che sono un po', secondo noi, ma secondo poi molta gente, i fondamentali della nostra società. Io parlo di tutta l'Italia, perché il vino è un elemento che non è una bevanda, non è la Coca-Cola, non è il whisky o la birra. Il vino per noi fa parte della nostra vita, al di là del fatto che veniamo da una regione dove si produce, dove per noi è molto importante anche economicamente, ma il vino è l'alimento della vita. E abbiamo detto: che cosa possiamo fare? Le istituzioni, secondo me, anche quelle regionali, comunali, sono un po' bloccate, perché si sentono davanti alle leggi di non poter più di tanto, ed è un po' l'atteggiamento di tutte le persone dell'Italia, dell'Europa, di soccombere, star zitti, lasciare perdere, sentirsi in colpa. Ma noi non ci dobbiamo sentire in colpa per il vino. Abbiamo visto che c'erano ad Alba dei cartelloni pubblicitari molto grandi, di quelli che sono lì da anni, 6x10 metri, molto enormi, ma la gente non ci fa più caso alla pubblicità, perché sono cartelli che sono lì con le stesse pubblicità solite. Ci abbiamo piantato su un bel cartello: guida poco che devi bere, perché volevamo sensibilizzare un po' la gente, le istituzioni, a non sentirsi in colpa per aver bevuto, per bere correttamente il vino. Ma che reazione c'è stata? La reazione, possiamo dire che se una persona si è lamentata, e sappiamo già poi chi possono essere, sono tutti quelli che non bevono, poi quelli che si sono lamentati. Abbiamo avuto telefonate, email, gruppi su Facebook, tre telefonate di personaggi da tutte le parti d'Italia che hanno detto: che bella idea, parliamo di questa cosa. Adesso vediamo che ne stiamo parlando con molta tranquillità e molta serietà. Che cos'è? Perché questa legge? Ma ci sono diversi punti di vista. Il mio, per farla corta, più semplice, è che su questa storia ci tirano su un sacco di soldi, e come sempre lo Stato, per non parlare di governo, lo Stato ci tira fuori dei soldi, continua a impaurire la gente, continua a farli sentire succube. Secondo me è una cosa molto molto molto molto brutta. Ma in che senso ci tirassi i soldi? Con le multe? Ma guardi, un amico che è stato fermato da poco, tra l'altro lui era uno dei pochi negativi, perché i cattivi erano 50, e dentro quell'ambulanza dove ti fanno soffiare tutti, dice che c'erano sulle 50-60 pratiche sulla scrivania. Faccio un conto che, a sentire dalla gente della mia osteria, sono dalle 3 alle 5 mila euro che si tirano fuori per poter riavere la patente, senza contare che ti possono vendere la macchina. Questa, secondo me, è la cosa più ignobile che può succedere, che mi vendano l'auto, è una cosa pazzesca. Faccia conto che una pattuglia può portare a casa, secondo il mio conto agricolo, saranno 100-150.000 euro per ogni pattuglia. Faccia conto quante pattuglie, poi ecco, vediamo lo stato moralista, no? Come il moralismo di quello che vede il nostro cartello che io e mia moglie Alessandra abbiamo posto all'ingresso di Alba. Qualcuno dice: c'è scritto devi, guida poco che devi bere. Allora, come se uno vede devi bere, si ferma al bar e si ubriaca. No, questo è il moralismo che hanno fatto sul cartello. Però nel bar c'è una slot machine su quale lo Stato prendeva il 13% fino a qualche mese fa, adesso il 14%, che lì non va bene. L'altro giorno al bar qua sotto hanno scaricato 1.040 euro di soldi da una slot machine. C'è gente che passa il giorno lì a lavorare, ci mangia le case nelle slot machine, nei distributori, quello va bene perché ci tirano su soldi. Non si fa la moratoria contro le slot machine, la fanno contro l'alcol, perché secondo me l'hanno fatto per tirare su dei soldi. E la gente vive male, vive malissimo, malissimo. Il poverino che viene con la moglie, una coppia di amici che vengono a far cena, che poi dice: ma chissà come chissà se tornerò a casa. Noi stessi, le strade di campagna qua sono tutte popolatissime, siamo tutti nei campi per andare a casa. Ci siamo, ma cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto? Una bottiglia in due, in un'ora e mezza di cena. Non è che abbiamo ammazzato nessuno. Mio nonno ha bevuto vino tutta la vita, non ha mai bevuto l'acqua, io non l'ho mai visto ubriaco. Bene, io la devo, l'ho fatta parlare bene a lungo perché volevo che fosse chiaro che questa è una filosofia non solo antiproibizionista, ma è una filosofia profondamente radicata poi in che cosa? In una delle più alte, più nobili e più riconosciute, più ricche di soddisfazioni tradizioni che abbiamo in Italia, nel senso che tradizioni di eccellenza, oltretutto da dove ci sta, da dove ci chiama Battista, è una delle aree, io sono piemontese, quindi sono un po' partigiano, ma insomma è una delle aree di più straordinaria concentrazione di qualità in questo tipo di lavorazione. Insomma, il vino è una grande tradizione. Devo dire però che a me ha colpito nel dibattito di questi giorni che effettivamente qualche traccia non solo di moralismo pubblico ma anche di cattiva informazione c'è. Per esempio, faccio un esempio: quando il sindaco di Milano Letizia Moratti ha motivato l'ordinanza dicendo che oltre il 34% dei ragazzi milanesi tra gli 11 e i 15 anni, oltre il 34%, avevano problemi di alcolismo, con un po' di amici economisti e statistici abbiamo fatto un salto sulla sedia, perché diciamo, il 34% dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni hanno problemi di alcolismo. Abbiamo tentato di rintracciare il dato, e dopodiché c'è tutto il dibattito, per chi lo volesse approfondire, sul sito www.noisefromamerica.org, quindi non me lo sto inventando, e scatenatici un bel po' di noi a cercare questa interpretazione di questo dato statistico che ci sembrava molto allarmante, molto serio, perché se veramente un ragazzo su tre di Milano in questa età ha problemi rilevanti di alcolismo, beh, ci sarebbe molto da preoccuparsi. E quello che abbiamo trovato era che si trattava di un'estrapolazione di un rapporto commissionato per conto del governo, e questo rapporto per conto del governo, che si può scaricare quindi dal sito di Palazzo Chigi, l'Osservatorio Nazionale Alcol di CNESPS, ha consentito al sindaco di Milano di dedurre che il 34% della classe 11-15 anni hanno problemi di alcol, nel senso che era la risposta a una domanda con un sondaggio svolto sulle famiglie, e la domanda specifica su questo punto era: nell'ultimo anno, ripeto, negli ultimi 12 mesi, vostro figlio ha bevuto un bicchiere di vino? Nell'ultimo anno, un bicchiere di vino. Questo si è tradotto nella comunicazione da parte del sindaco di Milano che il 34% degli adolescenti di Milano hanno problemi di alcolismo. Allora, bisogna andarci un pochino piano, perché voi capite che non siamo un paese in cui c'è il 34% di minori con problemi rilevanti di alcolismo. Detto questo, e solo per fare capire che come sempre i numeri nella versione di Oscar vanno rispettati, vorrei in secondo parlare di numeri invece con Paolo Massobro. Tendo a zittirmi adesso perché ho parlato troppo in questo inizio di trasmissione. Paolo, ma in realtà in questa civiltà antiproibizionista non ci serve anche molto per capire che, come al solito, siamo un po' esperti troppo nell'arte di fare del male al nostro vino? Io penso al Vinitaly, qualche tempo fa, e proprio nei giorni di Vinitaly, a chi attaccava il vino italiano descrivendolo come una specie di mecca dei furbi truffatori. Ci facciamo un po' del male da soli, o sbaglio? Ma ci facciamo del male da soli, cioè noi viviamo ormai in un'era in cui basta mettere una regola e ci si sente a posto, nessuno parla più dell'educazione. Adesso sul banco degli imputati, quando si parla di alcol, viene messo il vino, ma ci rendiamo conto che i ragazzi, io ho tre figli, no? E ho anche una cantina, come puoi immaginare, ben fornita, che non è mai stata minacciata né dai miei figli né dai loro amici, non mi hanno mai aperto bottiglie o rubato bottiglie. Certo, la verità è che i giovani, quando si trovano insieme in branco, bevono superalcolici, questo è il problema. Bevono superalcolici, come anch'io quando avevo 16 anni l'ho fatto, perché psicologicamente ci si sente grandi a bere il whisky, è un certo processo di inizializzazione. Però il vino non c'entra nulla e anche l'innocente birra credo non possa essere associata all'alcolismo. Devo dire che stamattina io ho letto su Il Giornale, nella pagina delle lettere, un intervento di Andrea Muccioli che francamente mi ha molto convinto sull'idea di prendere in mano l'educazione, cioè di parlare di educazione al consumo e non di parlare solo di proibizionismo o antiproibizionismo. Andrea Muccioli risponde a Sgarbi e purtroppo si va da un eccesso all'altro quando si tratta di questi problemi, si generalizza troppo. Educare che cosa vuol dire? Vuol dire anche appunto quello che dicevi tu, Oscar, cioè far capire che il vino non è il principale imputato quando si parla di questo. Il vino fa parte di una civiltà, il vino fa anche meno alla salute, certo conta la moderazione, ma io mi ricordo che fino a un anno e mezzo fa su un quotidiano nazionale, Il Messaggero, faccio il nome, Il Messaggero aveva chiesto un set di fotografie dove quando parlava di droga c'era di fianco una bottiglia di spumante di una nota casa della Francia Corta. Ogni volta che usciva una notizia di sequestro di droga oppure di alcolismo c'era una di quelle foto di quel set. Ma che cosa c'entra? Cosa vuol dire? Perché associare uno spumante alla droga dando per scontato che comunque l'alcol è droga? No, è droga anche mangiare tanto prosciutto di Parma e ti viene la cirrosi anche se mangi tanto prosciutto di Parma, cioè voglio dire ogni eccesso ti porta a una patologia. Vediamo un po' gli ascoltatori, il numero 800240024, cosa ne pensano? Iniziamo da Mauro che ci chiama dalla provincia di Milano, prego Mauro. Buongiorno a lei, tanti complimenti e soprattutto non me ne voglia, un abbraccio grandissimo a Paolo di cui sono un ammiratore incondizionato. Le è consentito, va bene, poi... Senta, volevo dire questo, Paolo mi ha tolto veramente tutti gli argomenti. Io ho 47 anni, una figlia di 20, un figlio di 18 e uno di 15. I miei figli hanno il problema che quando escono con gli amici bevono delle cose inenarrabili, delle cose schifose, gli chiedo di guardare sempre i nomi delle bottiglie, le marche, delle cose di livello infimo che nulla hanno a che fare col vino e con la qualità del bere. Il problema è un problema educativo, non solo in senso generale di educazione al rispetto di se stessi, a non esagerare con le cose che possono far male, ma di educazione anche nello specifico al gusto, al conoscere le cose buone e le cose che vengono dal nostro territorio e che sono prodotte bene, perché la qualità, avendo anche un certo tipo di prezzo, un certo tipo di approccio, obbliga anche alla moderazione. Il problema è in educazione generale, ma anche in educazione nello specifico, che da noi manca. Perché siamo abituati a fare le cose sempre con poca testa. I nostri ragazzi vanno educati, vanno accompagnati. Paolo ha ragionissima. Il problema è un problema educativo, non un problema di dittatura del giuridismo. Noi in questo paese siamo abituati, quando non si riesce a risolvere un problema, a mettere una regola restrittiva. Solzhenitsyn la chiamava dittatura del giuridismo, ma è vero. Siamo pieni di regole, siamo un paese pieno di regole, perché non siamo un paese capace di educare. Sì, basta. Siamo un paese pieno di grida manzoniane, buone per una settimana a far salire nei sondaggi chi le assume e poi non vengono rispettate oppure restano delle grida. A proposito di educazione, io ricordo che quando piccolo a Torino eravamo nell'epoca ancora pre-metanolo, prima del grande consolidamento, del grande fenomeno di aggregazione dei terreni che poi diventano i terroir in Piemonte, quindi erano tutti ancora molto frazionati le aziende nel Monferrato, nelle Langhe e così via, e c'erano questi vecchi nonni alcune volte noi andavamo a trovarli quando eravamo ancora ragazzini, ripeto, scuole elementari, che ci mettevano alla prova facendoci assaggiare pochi, mezzo dito in bicchieri diversi di vini, per farci abituare al sapore, a gustarlo e a capire che vino era. Dopodiché, dopo un po' di prove, se non ci si riusciva, arrivava qualche puntuale scappellotto. Io mi ricordo questo rito di iniziazione, ancora una volta, perché era una delle cose più efficaci nel, innanzitutto, farti capire i diversi vitigni, i diversi vini, e poi anche farti capire che bisognava bere poco, con grande attenzione, perché sennò erano schiaffi. Gianni da Parma, prego Gianni. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti all'ascoltatore che ha appena chiamato, perché introduce perfettamente il tema di quello che io volevo dirvi. Sono responsabile qui alla Croce Rossa di Parma della sezione educazione stradale ai ragazzi nelle scuole e ovviamente anche all'abuso e uso di sostanze stupefacenti, per cui ci si muove nelle scuole con molta attenzione, non si urta la suscettibilità dei ragazzi. Comunque vengo al sodo perché il tempo è sicuramente poco. L'anno scorso, proprio durante questo periodo, noi abbiamo una discoteca un po' particolare, non le dico dove, non le dico il nome, dove comunque i ragazzi affrontano questo lungo viaggio verso l'Appennino e lì rientro e sappiamo tutti cosa può succedere. Benissimo, gravi incidenti stradali, morti, lutti, disperazione, eccetera, eccetera. Quest'anno è stato fatto qualcosa di importante a livello di prevenzione e a livello di repressione. Si grida lo scandalo perché i neopatentati, chiaramente sabato sera, l'ultimo, c'è stata una piccola strage di patenti, la polizia ha fatto il dovere, noi eravamo sul posto, per cui io ero sul posto in prima linea a verificare la tolleranza, l'intelligenza degli addetti, delle forze dell'ordine, nel cercare di far capire a questi ragazzi quanto è importante che loro vogliono bene a se stessi e anche a chi sono i trasportati, per cui vi dico, non c'è assolutamente nessuna repressione, nessuna voglia di fare cassa. Insomma, io sono rimasto veramente impressionato da quel credo tre interventi fa, quello dell'osteria del Piemonte, non ricordo come perché... come no, il nostro amico Battista Cornaglia, ecco, perché guarda, l'ha impressionata? Perché le dico, noi siamo in una situazione dove di fronte alla comunità europea, tutti i paesi, nel libro bianco avevamo ipotizzato una riduzione della mortalità sulle strade entro il 2010 del 50%. Solo tre nazioni ci sono riuscite, lasciamo stare chi sono, non ha importanza. Noi non ci siamo riusciti. Allora, a fronte di spese sanitarie, invalidità permanenti, cose che guardi, io purtroppo quotidianamente vedo sulle strade, sono smontato ieri sera dopo 13 ore di ambulanza e anche ieri purtroppo succede. No, ma io questo le do. Ma io l'unica cosa le chiedo di spendere una parola non sugli obiettivi generali. Lei è convinto che con ordinanze proibizionistiche generali, no, piuttosto no, che invece con sanzioni direttamente a chi provoca gravi incidenti, magari per effetto dell'alcol o di droghe, ma invece con provvedimenti generali contrari alla vendita, alla cosa eccetera, di vino e così via, si ottiene questo obiettivo? Questo è quello che mi serve capire da lei, oltre al rispetto. Guardi, per allora, tutto quello che fa, ovviamente, che è un compito straordinariamente importante. È anche molto difficile da eseguire. Allora, io le posso dire e dare dei dati, e questo sicuramente quando io poi dicifro nei miei rapporti, la gente rimane un po' a bocca aperta, perché come lei faceva l'esempio della bottiglia di spumante della certa marca, io le posso garantire, dati alla mano, che quando si fanno gli etilometri, e io non ho ancora capito perché vanno fatti solo il venerdì sera e il sabato sera, perché sembra che il problema dell'etilismo ci sia solo il venerdì e il sabato sera. Le stragi che fanno fastidio ai politici sui giornali di solito poi avvengono quelle sere lì. Ma senza che ci perdiamo, però, perché sennò perdiamo troppo tempo. Lei è convinto che il proibizionismo con le ordinanze generali serve? No, io sono convinto e le dico la ricetta, perché non nessuna la bacchetta magica, bisogna cominciare nelle scuole. Ah. Facendo quello che noi a Parma facciamo da tanti anni, qualche piccolo risultato l'abbiamo ottenuto, inutile autoincensarsi perché non funziona, però quello che io le sto dicendo è che si dà la colpa alle categorie dal 18 ai 22. Se lei va sul sito dell'Istat e guarda la mortalità del 2007 e del 2008, guardi le fasce, guardi gli orari, guardi l'età, rimane a bocca aperta. Allora, quello che le volevo dire, esiste un problema adolescenziale dell'alcol, esistono determinate questioni che portano a concentrarsi verso questi ragazzi, ma se io le dico che quando noi alla mattina alle 6 tiriamo le file di chi abbiamo fermato, di chi abbiamo valutato, e una piccolissima parte sono gli adolescenti, lei cosa mi dice? No, le dico che c'è un problema culturale di educazione. Le dico che le ordinanze generali come quella di Milano a me non convincono, perché oltre a colpire gravemente un settore che secondo me va aiutato e non va colpito, sono profondamente diseducative, perché la mia opinione è che con misure proibizioniste di quel genere si accresce il problema e anche il fascino che hanno nei confronti degli adolescenti. Può essere che io mi sbagli, naturalmente. Io sono per contenere naturalmente gli incidenti figlio di questo, ma credo che si debbano colpire più duramente con sanzioni coloro che fanno incidenti gravi, danni alle persone, al patrimonio, eventualmente, invece che associarlo all'idea che due bicchieri di vino producono inevitabilmente tutto questo. È la versione di Oscar, ci stiamo occupando dell'antiproibizionismo contro l'alcol e ce lo stiamo ponendo questo problema però dal punto di vista dell'educazione dei giovani. Il nostro punto di vista, quello della versione di Oscar, è che no al proibizionismo sia l'educazione alla qualità del bere. Il vino, io lo so che si scatenava l'ondata di SMS che sono puntualmente comparsi sul mio schermo, che mi accusano di essere difensore dei produttori, di ignorare che il vino è una droga, eccetera eccetera. Effettivamente io non sono d'accordo con la definizione del vino una droga. L'alcol crea gravi problemi anche di stupefazione, di sballo, non c'è dubbio. Il problema però è una educazione alla qualità e alla civiltà della sua assunzione. La civiltà del vino è la civiltà dell'eccellenza, della qualità. Vengo da una regione in cui fin da piccoli ci si educava a questo, e sono convinto che è un'espressione non solo di grande forza economica, ma anche di una filosofia di vita profondamente radicata nella storia del nostro paese. Non sono d'accordo con l'idea per cui vino uguale eroina. Questo, francamente, non vorrei vivere in un paese che avesse questo tipo di convinzioni. Vediamo ancora alcuni di voi come la pensano. Ronny, dalla provincia di Lecco. Prego, Ronny. Sì, buongiorno. Io sono un enotecario, quindi vendo vino al pubblico. E quindi certo non sarà l'oste a dire che il vino è cattivo, come si suol dire. No, certo, certo, certo. No, innanzitutto sono contro il proibizionismo, secondo me non porta da nessuna parte, anche se da quello che sapevo io già era proibito sia da parte di un minorenne servire degli alcolici sia consumarne, però probabilmente non è così. E secondo me bisogna fare un grande sforzo culturale, insegnare a questi ragazzi che cos'è l'alcol, storicamente cos'è stato il vino per la civiltà. La vitis vitifera esisteva 3000 anni prima di Cristo, veniva se ne parla dai filosofi, cioè c'è una cultura fondissima, non può essere presa semplicemente un alcol, una droga. Questo secondo me è un concetto fondamentale, che però in un momento in cui il pensiero è veramente ridotto al minimo storico, anche il vino ne soffre. Grazie. Giovanni da Padova. Giovanni, che ne pensa? Sì, buongiorno. Io mi riallaccio al discorso dell'alcol alla guida degli autoveicoli. Io sono rimasto sempre impressionato da sapere come vengono trattate le persone che vengono trovate con 0,5 o 0,6. E mi spiego, contro furti, ladri, tante cose che succedono, lo Stato mette 2 minuti in galera una persona e poi basta. Mentre uno che viene trovato con 0,5 o 0,6, basta, è finito. Viene considerato dallo Stato un alcolizzato, deve sottoporsi di trattamenti del CERT come fosse un drogato vero e proprio. Mentre stiamo parlando anche di persone che hanno 50, hanno 60 anni, ne hanno 40, ne hanno 20, ma che tutto hanno a che fare tranne che con essere alcolizzati. Quindi, se è vero che quello della Moratti è restrittivo, è legato solo al comune e così via, ma pensiamo anche alle condizioni nelle quali vengono messe le persone che vengono fermate, vengono considerate dallo Stato degli alcolizzati. Cioè, è la cosa più deleteria che possa fare anche uno Stato. Gli strumenti sì, ce ne possono essere, ma parificare uno che viene trovato con 0,5 o con 2 birre o con non so io che cosa a essere un alcolizzato, fosse usato questo metro su tutti i reati in Italia, saremmo un paese perfetto. Questa è la mia opinione. Grazie Giovanni. Ci ha raggiunto telefonicamente per 10 minuti perché ha molto da fare, io di questo lo ringrazio, quindi gli chiediamo solo questi 10 minuti, una testimonianza sua, un personaggio straordinario, un grande protagonista del processo di qualificazione sempre più accentuata e più intensa della grande enologia italiana. Vittorio Moretti, buongiorno Moretti. Buongiorno Ecco, per capirci a chi ascolta e per i pochi che non lo sapessero davvero, lei è fondatore di Terra Moretti, voglio dire aziende vitivinicole come quella della Bella Vista in Franciacorta, insomma stiamo parlando veramente dell'eccellenza della vinificazione in spumante italiano. Dal suo punto di vista, Moretti, per uno che ha passato veramente tanta parte della propria vita a seminare eccellenza e a saperla produrre e vendere in Italia e nel mondo, e ridurre poi il dibattito questo tema alcol uguale droga, come si fa, con giusti anche scopi, perché è chiaro che contenere i morti per strada, una civiltà del bere da parte dei giovani sono fondamentali scopi, ma questa equazione così semplice in una persona come lei che tipo di reazione induce? Ma io rimango allibito di questo per il semplice fatto che io mi sono affezionato al vino anni fa come un fatto culturale, perché ritengo che questo sia il vino. Oggi si mette il vino a livello dell'alcol, che è una cosa completamente diversa, una cosa che non sta in piedi. Il vino è un fatto culturale perché ha una storia, perché è nato con l'uomo e è giusto che continui ad essere così. Il consumo di vino è naturale per un uomo, è una cosa che fa parte della nostra cultura e del nostro modo di vivere. Quindi se purtroppo la cultura delle nostre famiglie è scaduta a tal punto, e anche delle nostre scuole, non solo delle nostre famiglie, è scaduta a tal punto di non riuscire a fare dei confronti, cioè a chiarire bene la differenza che passa tra superalcolico o alcolico e vino, è una cosa gravissima, perché al di là del fatto che il vino ha una sua forza diciamo nel fatto economico del paese, che è importante perché fa lavorare migliaia di persone e crea benessere anche per tante persone, l'alcol è un discorso diverso, un discorso che viene fatto a livello consumistico proprio, no? Le multinazionali spingono su questa situazione perché hanno bisogno di vendere, di fare utili, e hanno trovato terreno fertile nei giovani. Questo è sbagliatissimo, perché purtroppo il giovane, non avendo scuola sufficiente, non avendo cultura sufficiente per poter definire che cos'è il prodotto, chiaramente si lascia trasportare. Però il vino è una cosa diversa, il vino è fatto da sacrifici, è fatto da lavoro intenso e poi è un prodotto che dà alla fine grande soddisfazione per tutti, soprattutto chi lo beve e chi è un gourmand, chi è un cultore del bel vivere, non è assolutamente legato al fatto dell'alcol, che ti porta allo sballo, come si dice oggi, e tante belle cose. Senta Moretti, io ne approfitto di averla per farle un'altra domanda, perché certo. Come sta andando quest'anno con la crisi? Perché a me aveva colpito che tutto sommato nel 2008 era un anno ancora tutto sommato con una buona performance dei vini italiani sui mercati internazionali, avevamo fatto un più 2, insomma 3.7 miliardi di euro le esportazioni di vini italiani, insomma ce la si combatteva bene. Al Vinitaly era uno strepitoso successo, mai vista tanta gente come al Vinitaly nello scorso mese di aprile, quindi sembrava che ci fosse una reazione di qualità, ecco, alla crisi, soprattutto pensando che nel mondo, è vero, i grandi consumatori di vini di qualità, e quindi sto parlando degli Stati Uniti e la Gran Bretagna, sono quelli che oggi più riducono i consumi anche di elevato livello, però si apre una realtà in cui tanti grandi paesi, persino dal Brasile, voglio dire, all'India e alla Cina, sono molto interessanti. Ma da questo punto di vista lei come la vede? Come stanno andando le cose per il vino di qualità italiano in quest'anno? Le dico subito, c'è un calo dovuto alla crisi sicuramente sui prodotti di alto costo e sul prodotto medio il mercato tiene abbastanza bene. Naturalmente questo calo è dovuto sicuramente anche al fatto che uno che viene perseguito, perché questo è proprio un attacco alla persona, di fermarlo per strada e controllare se questo abbia avuto un bicchiere o due bicchieri di vino, o due bicchieri è fuori dalla grazia di Dio. Quindi c'è un calo naturale per questo. Però una cosa minima, perché alla fine i prodotti di qualità, i prodotti che hanno un marchio fatto negli anni, perché la qualità non è, e soprattutto l'eccellenza non è acqua, questo viene, il consumo viene mantenuto. Infatti noi con le nostre aziende non abbiamo assolutamente grossi problemi, c'è un piccolo calo e si affronta un mercato molto più difficile, però è una cosa che non è drastica, voglio dire, è una cosa che si mantiene a determinati livelli di consumi e si gioca bene, insomma, non c'è nessun problema. Io ringrazio molto Vittorio Moretti, invito chi non lo avesse mai fatto a dare veramente un occhio, a fare un salto nelle sue aziende a Erbusco o in Toscana e a vedere come si può abbinare una strepitosa concentrazione sulla qualità nelle produzioni di vino, anche una città dell'accoglienza, sto parlando insomma di strepitose strutture di accoglienza turistica. Detto questo, Paolo Massobrio, fermiamoci un secondo di più adesso in questa seconda parte sulla qualità del vino italiano. Ci sono segnali che secondo me come sempre rischiano di essere mal interpretati. Faccio un esempio: il fine settimana scorso giornali pieni di grandi titoli, 1.300.000 litri di Brunello di Montalcino, quindi stiamo parlando insomma di una grande DOCGG italiana nel mondo, che verranno rimessi sul mercato, dicevano i giornali, solo a patto di essere degradati, non sono più Brunello, e sembrava che fosse il frutto, per così dire, di accertamenti per i quali i produttori con le mani nel sacco. Invece solo gli addetti lavoro, ma naturalmente questo negli articoli non c'era scritto, sanno che si tratta della parte conclusiva di una lunga indagine che ha prodotto enormi danni, e quella è una parte relativa alle quantitative di vino sequestrati all'inizio dall'autorità giudiziaria per condurre gli accertamenti, e per ottenerne il sequestro i produttori hanno accettato, per poterli commercializzare, che venissero degradati fuori dal disciplinare. Detta così, che è la maniera corretta secondo me, è un po' diversa che dare in pasto alla gente la cosa dicendo era Brunello ma non è Brunello e quindi lo si può vendere solo degradato. Faccio questo esempio perché contemporaneamente invece lo stesso fine settimana si legge che quelli che devono tutelare il disciplinare del Barbera hanno chiesto invece di metterci altri vitigni dentro, ma insomma vogliamo difenderla sta qualità o bisogna rassegnarsi a mettere altri vitigni perché altrimenti costa troppo? Cosa sta succedendo? Ma guarda Oscar, questa si sta discutendo proprio in questi minuti, questa proposta di modifica del disciplinare della Barbera, io la chiamo il femminile perché i nostri contadini la chiamavano così, ma sono esempi quelli che tu hai fatto, che il mondo del vino non ha purtroppo un governo, il mondo del vino è fatto di oggi di tanti personaggi, di tanti VIP produttori, io dico molto incravattati, e poco capaci di fare squadra. Eccoci, ho interrotto Paolo Massobro che ci stava dicendo che il governo dei disciplinari del vino è nelle mani di persone un po' incravattate, stava dicendo. No, non c'è un governo, ci sono dei leader che guardano molto di più ai punteggi sulle guide dei loro vini, alle classifiche che fanno in America, rispetto all'esigenza di fare squadra, proprio sugli argomenti di cui stiamo parlando. Ma dove è finito Veronelli? Dove sono finite le battaglie di Veronelli, che chiamava i produttori nelle piazze, no? Insieme a dire ma dobbiamo difendere un bene collettivo? Ma io ne leggo un'altra oggi, leggo che nel Chianti, dove non c'è un governo, anziché abbassare le rese fanno il blocage, cioè bloccano il 20% del vino in cantina, che vuol dire è un provvedimento per avere la botte piena e la moglie ubriaca. C'è un po', capisci? Come l'OPEC quando dice no, non ci soddisfa il prezzo, vendiamo di meno del petrolio, insomma. No, ma esatto, intanto però teniamoci le cantine piene, poi la prossima vendemmia cosa fanno quando non hanno venduto, secondo me, quel 20% di vino che potevano non produrre, magari innalzando di più la qualità. Nella Barbera è uguale, cioè quello che non sono riusciti a fare nel Brunello di Montalcino, nel Barolo del Barbaresco, perché appunto i provvedimenti che tu hai ricordato del Brunello di Montalcino sono dati dal fatto che non sono riusciti a modificare un disciplinare, quindi viene declassato un Brunello di Montalcino che non è Brunello di Montalcino perché aveva altri vitini. Lo vogliono fare nella Barbera, cioè dopo che Giacomo Bologna ha sdoganato la Barbera nel 1986, l'ha portata in tutto il mondo, è riconosciuta in tutto il mondo. In America si beve Barbera perché è il vino giusto, alla giusta qualità prezzo in questo momento. Vogliono farlo uguale, col sapore uguale al vino australiano, cioè appiattirlo. Ma questo è proprio, dice del, non dico dell'idiozia, ma del non governo del vino, della mentalità industriale del vino, che guarda al carpe diem, al momento di oggi, non guarda la prospettiva. Giacomo Bologna ha insegnato che un grande vino come la Barbera si poteva far conoscere, apprezzare nel mondo così com'era. Vedi Massobro, io sono convinto che è una stessa impostazione educativa, come bisogna insegnare agli adolescenti, ai minori, i rischi legati all'assunzione di diversi tipi di alcol, e bisogna insegnare loro la civiltà del vino, perché siamo in Italia, e rispondo con questo ai tanti sms che mi dicono che siamo andati fuori tema perché qui il problema è la tutela dei minori ed evitare che facciano incidenti. No, non siamo andati fuori tema, il mio è un approccio culturale, educativo, antiproibizionista, ma fatto con la cultura e l'educazione. Il vino non è uguale ai superalcolici da sballo da 1,50 euro per 3 litri. Il vino è civiltà, e bisogna essere buoni padri, buone madri, e saper avvicinare i propri figli, i propri nipoti a che cos'è il vino, a insegnare che cos'è la qualità del vino, e anche a introdurli alla nozione, alla capacità di sapere distinguere in bocca, a saperne ritenere il gusto, a saperlo associare ai vitigni e alle storie dei terreni che sono le diverse regioni d'Italia e dei vitigni nelle diverse parti d'Italia. Questo significa, secondo me, occuparsi seriamente del problema del contenimento dei danni. Allo stesso modo, la difesa delle qualità e dei disciplinari è la difesa del meglio che c'è. Cioè, io sono perché quelli della Marone, i migliori produttori della Marone, che dicono noi la Marone low cost non lo vogliamo, secondo me bisogna difenderla questa città. Però Massobro, spiegami una cosa, come mai tu dicevi non ci sono più i Veronelli, eppure perché non ci sono? Perché i produttori fanno meno squadra insieme di un tempo, secondo te? Ma perché i produttori di vino hanno fatto troppi soldi, cioè c'è stato nel dorado del vino dopo il metanolo, e quindi si sono creduti dei singoli soli che non avevano più bisogno del territorio, non avevano più bisogno di mettersi insieme. E quindi davanti a tutti questi attacchi al vino non c'è assolutamente nessuna voce comune, no? Solo qualche sparuto intervento di qualche produttore cosiddetto leader. Questo è veramente un male, perché appunto noi qui stiamo parlando di alcolismo, e nell'alcolismo viene messo sul banco degli imputati il vino. Allora, per tornare all'argomento, come diceva l'SMS che tu hai ricordato, io voglio dire che il proibizionismo attizza il gusto del proibito, questo lo sappiamo tutti, per cui può provocare solo un consumo di superalcolici da altre parti, e quindi il problema non si risolve. Però è anche vero, c'era uno che è intervenuto, è di Padova, che quando il comune di Padova ha fatto lo stesso provvedimento per il centro di Padova, davano degli spritz che erano degli intrugli immondi, che facevano del male al fegato degli studenti che avevano pochi soldi, e con 1 euro si rovinavano. Allora io metterei in galera queste persone qua che danno i fondi di magazzino, danno degli intrugli, no, ai ragazzi. Credo che il provvedimento della Moratti comunque sia a metà della questione, nel senso che vuole un po' sollevare un problema, cioè esercenti, state attenti, cioè non diventate dispensatori, no, di superalcolici. Spero che arrivi quel termine lì. Prima ho citato all'inizio del mio intervento un grande educatore come Vincenzo Muccioli, ma Vincenzo Muccioli ha educato al bello partendo dalla produzione del vino. Lui fa un grande vino, uno dei migliori vini d'Italia, il suo Sangiovese Avi è uno dei migliori vini d'Italia, ma è partito da lì, perché il vino è educazione al bello, educazione al gusto, educazione alla misura. Andate a vedere la comunità di San Patrignano, dove la gente viene recuperata alla vita partendo dalla vite. Saro da Torino abbiamo. Prego, sì. Saro, ci dica. Buongiorno Giannino, buongiorno. Grazie per l'opportunità. Senta, io faccio il barman da 25 anni. Io dico che i problemi sono di diverso tipo, però prima di tutto non sono d'accordo con le proibizioni. Secondo punto, io ho due figlie che vivono la movida torinese in un modo incredibile, molto costante, ma le assicuro che nessuno dei due è mai arrivato a casa sversa. Sarà che io parlo, che nel mio lavoro ne vedo tanti, quindi la cultura, l'insegnamento e l'informazione gliel'ho data dall'inizio, e quindi l'Accademia si parla di alcol, di vino in modo tranquillo, queste due sono serene. L'ultimo punto è questo, ci va onestà da parte di tutti. In questo senso, io faccio il barman, le assicuro che se do un cocktail a una persona e vedo già che non sta bene alla seconda, io mi rifiuto di darglielo. Io ho avuto 4 locali, stavolta faccio il dipendente perché mi sono stancato, ma il mio modo di fare è sempre stato questo. Se ma si sentirebbe di dire che il suo modo di fare è maggioritario nella categoria, oppure di continuare a dargli cocktail e glieli danno? No, io dico è maggioritario, aspetti, però dipende dalla professionalità, serietà e mi dispiace dirlo anche da età. Io 50 li ho superati, ma la penso così da sempre, perché se io vado allo stadio di Torino e mi fanno posare un accendino, vado all'aeroporto e mi fanno buttare la bottiglietta di plastica, non si capisce perché nelle discoteche torinesi e di tutta Italia si entra con le bottiglie dentro la borsa, perché ci sono gestori disonesti, barman disonesti e quelli invece che vogliono soltanto essere corretti e tirare sulla pagnotta. Il problema è anche questo, però dico questo, se ogni giorno si propina l'informazione, perché l'avis ha bisogno di sangue tutti i giorni, ogni giorno bisogna dire che l'alcol fa male, in un modo costante, preciso, fa capire ai ragazzi che ti fai male da solo. Grazie. E non credo alla droga del tuo quotidiano, così come non credo all'alcol quotidiano. L'alcol fa male, però non mi puoi proibire di vendere, se no in un momento come questo rompiamo altro fonte. Grazie Saro da Torino. Allora, torniamo a Battista Cornaglia, che insieme alla moglie, non l'abbiamo citata, ma la moglie ha un ruolo straordinario, Alessandra Biglino, questa meritoria campagna. Lo ripeto, questa è la mia opinione, l'opinione della versione di Oscar, meritoria, mi prendo l'impopolarità di dire che questa sana campagna guida poco che devi bere, mi sembra che abbini sia la città della moderazione, perché a guidare meno non succede proprio niente, che la difesa di una straordinaria parte migliore della città italiana, cioè il vino. Battista, torniamo al punto da cui siamo partiti, le abbiamo consentito, diciamo così, di esprimersi e dare un piccolo contributo alla sua battaglia. Ma questa battaglia, dal punto di vista di come va la sua osteria, l'azienda agricola Casa Scaparone, dà risultati poi, oppure quest'anno è un anno proprio brutto anche per lei? Ma diciamo che nella zona, secondo me, i locali, parliamo di ristoranti, agriturismo, che hanno lavorato bene nel passato, la crisi economica la sentono poco, secondo me. Perché aver lavorato bene vuol dire un ottimo rapporto qualità-prezzo, di saper ascoltare la gente, di sapersi anche imporre quando è il momento. Io sento più che altro dalle telefonate che abbiamo ascoltato da tutta Italia una grossa paura di vivere che ha la gente, e sono convinto che siamo convinti che mettere tutte queste regole e di crederci e di non avere il coraggio di affrontare la vita per quello che è. Io credo molto, ad esempio, nell'umanità di molti agenti della polizia e dei carabinieri che conosco e che mi dicono: a volte siamo noi a dover valutare la persona che ci troviamo di fronte, perché adesso siamo ritornati sui minorenni, siamo ritornati sull'alcolismo, non abbiamo affrontato il problema che è quello che ci sta a cuore, la povera gente, la brava gente che se ne torna a casa da un'osteria dopo aver fatto una normalissima cena in 4 amici, questo è il problema e non l'abbiamo affrontato, e sono gli agenti poi che si devono trovare di fronte a questa gente, e a volte si mettono loro nei panni di queste persone, perché non è giusto, secondo noi, far soffiare tutti dentro queste macchine diaboliche, perché non deve essere un sistema. Questi agenti, buona gente che lavora su questa strada per la sicurezza di tutti, deve saper valutare, secondo noi, chi ha di fronte. E questo strumento dell'alcotest deve essere solo una verifica per essere sicuri che questa persona abbia bevuto, e fanno in fretta loro perché sono sempre sulla strada a capire chi ha esagerato, chi è una persona normale, ed è su questo modo di affrontare le cose, che si chiama bon sense in piemontese, che sarebbe il buon senso generalizzato, che si è perso completamente, perché ci sono persone come questa bravissima persona che ha parlato per primo della Croce Rossa, che snocciola numeri, regole, tutti morti, gente schiacciata da tutte queste cose, però lo sappiamo benissimo come funziona il mondo, però dobbiamo affrontarlo con il buon senso, non dobbiamo avere paura di affrontare la vita. Grazie Battista, questo appello generale al buon senso, all'esagerumanen, come si direbbe dalle nostre parti in Piemonte, è la maniera di chiudere la trasmissione per farvi capire che non è che abbiamo fatto un appello all'ubriacatura generale a guidare, il contrario, ci sono tanti paesi con i limiti alcolemici nel sangue più elevati di noi, non sono paesi incivili come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, non è il proibizionismo generalizzato la risposta, ma l'educazione, la cultura. E con questo appello all'esagerumanen e a bere bene, francamente, chiudiamo questa settimana. Io vi do appuntamento lunedì, dopo aver ringraziato Giorgio Mattei in regia e i miei insostituibili bracci destri, il Gloria Guerrero e Laura Fagin, la linea al GR, appuntamento a lunedì. Yeah.